America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti ad America 24 da Lisbona, Mario Platero. Mi trovo al seguito del presidente Obama per il vertice NATO terminato nel fine settimana. Al di là delle notizie che avrete seguito anche sui giornali, direi è arrivato il momento di fare un bilancio di questo vertice di Lisbona. Storico sicuramente sotto molti punti di vista, quello strategico perché si è deciso di costruire uno scudo antimissile in funzione anti-iraniana, si è stabilita una data precisa per il ritiro delle truppe americane dall'Afghanistan nel 2014, ma la NATO, e questo è uno sviluppo importante, resterà garante dopo il 2014. C'è anche stato un vertice NATO-Russia con un accordo per riprendere esercitazioni in comune, per collaborare nella gestione dello scudo antimissile, per lavorare insieme su certe operazioni militari in Afghanistan. Due giorni intensi di gran lavoro, dunque, di risultati e una constatazione, direi con una certa amarezza, la struttura NATO, il patto transatlantico, esprimono un rapporto più forte di quello che riesce ad esprimere l'Europa politica, cioè l'Unione Europea nel suo insieme. L'Unione funziona dal punto di vista economico, meno da quello politico. The substance on the NATO-Russia agenda is getting a solid boost with more cooperation on Afghanistan, a joint review of the challenges we face together today, and a more effective fight against terrorism, narcotics and piracy. Avete ascoltato Anders Rasmussen, segretario generale della NATO, che dice: qui a Lisbona siamo riusciti ad archiviare i fantasmi del passato, anzi li abbiamo esorcizzati, abbiamo un nuovo inizio con la firma del documento d'intesa, abbiamo raggiunto un accordo scritto che elimina le minacce degli uni nei confronti degli altri, si sta riferendo qui alla Russia, al vertice NATO-Russia, e apre la collaborazione per combattere le nuove minacce comuni che si profilano all'orizzonte. L'accordo non è solo storico, dice Rasmussen, ma è uno dei più importanti in assoluto nella storia della NATO. Parole forti che però mettono in secondo piano le tensioni che conosciamo fra Russia e Georgia, le incertezze per l'integrazione dei sistemi antimissili e le violazioni palesi, direi, dei diritti civili e delle libertà di stampa in Russia. It is a national security imperative that the United States ratify the New START treaty this year. There is no higher national security priority for the lame duck session of Congress. Interviene anche Barack Obama, sono determinato, dice, a procedere con il voto per la ratifica del trattato START. Ricorderete, ci sono state polemiche, il trattato START è stato firmato da Barack Obama con il presidente russo Medvedev al vertice di Praga nell'aprile scorso, a questo punto bisogna ratificarlo e il presidente dice nelle dichiarazioni che vi ho fatto ascoltare che è in gioco la distensione con la Russia, la sicurezza dell'Europa, che obiettivi per il trattato START sono degli obiettivi bipartisan, centrali per molti paesi europei e dunque guai, dice Obama, a sprecare questa occasione. Barack Obama da battaglia, già oggi al suo ritorno a Washington comincerà a spingere di nuovo per la ratifica del trattato, vuole isolare il senatore repubblicano Kyle dell'Arizona, che ha detto che non si riuscirà mai a votare in questa sessione in attesa del nuovo congresso e Obama invece ha deciso di fare un contrattacco, ritiene di poter avere questi voti, ha avuto l'appoggio di ministri degli esteri di almeno sei paesi dell'Europa dell'Est, sono aperte nuove prospettive dal punto di vista politico e poi dal punto di vista militare, perché per esempio sempre in base a questo accordo firmato a Lisbona, NATO e Russia insieme guardano ai nemici comuni, sia che essi si chiamino terrorismo, minaccia di proliferazione nucleare o terrorismo informatico, decadenza ambientale. Insieme potranno organizzare trasporti di materiali bellici da usare per l'offensiva in Afghanistan e quindi si potrà passare per il territorio russo dal nord. E dunque occorre chiedersi se vale la pena di mettere a rischio questo processo di distensione per l'ostinazione di qualche senatore repubblicano. Un accordo firmato tra l'Afghanistan e la NATO. La cosa più importante non è soltanto il fatto che ci siano delle date precise, 2011, 2014, una consegna progressiva dei poteri, ma che con questo accordo si stabiliscono dei parametri di sicurezza reciproca che vanno al di là del 2014, dunque l'ombrello NATO offre garanzie all'Afghanistan e un messaggio molto preciso ai talebani. Abbiamo ai microfoni di America 24 l'ambasciatore Stefan De Mistura, il rappresentante del segretario generale delle Nazioni Unite a Kabul. Buongiorno ambasciatore. Buongiorno, buongiorno a voi tutti. Allora, un bilancio su questo accordo, su questa firma. L'accordo è importante ed era necessario. Gli afghani hanno due caratteristiche, due pensieri costanti. Il primo è quello della propria sovranità. È un popolo fiero e il presidente Karzai continua a chiedere maggiore sovranità. Dall'altro hanno bisogno di non sentirsi abbandonati per la terza volta. Si ricorda la prima volta con Najibullah, la seconda volta dopo i talibani, e il loro timore era che il 2011 era arrivederci, addio. E questo non lo volevano. Questo accordo li rassicura e nello stesso tempo li conforta di cominciare ad essere un popolo sovrano. Ci sono già delle idee su contingenti che potrebbero esserci da qui ad allora? Ci sono delle idee su quali delle 34 province e con che tempi possono diventare appunto aperte e passare alla gestione direttamente degli afghani, o siamo ancora nelle fasi preliminari? Siamo nelle fasi preliminari, ma queste idee ci sono e non è per me il momento di indicarle, ma puoi immaginare che i primi passaggi saranno nelle zone dove c'è un parametro di sicurezza maggiore e un parametro di governabilità maggiore, e ce ne sono già alcune in Afghanistan. Saranno l'esempio per le altre. Cosa significa questo per le truppe italiane? Beh, l'Italia si trova in una regione importante, quella della città di Herat e degli dintorni. Io credo che la città di Herat già sta dimostrando ampiamente che c'è una possibilità di stabilità proprio nella città. Vedremo nei prossimi mesi quando i parametri verranno applicati. Comunque c'è ancora del lavoro da fare, perché bisogna assistere la popolazione Herat a reggersi sulle proprie gambe, ma sono molto vicini a farlo, più di qualche altra regione. Bene, ringraziamo a Lisbona, a questo vertice NATO, l'ambasciatore Stefan De Mistura. Buon viaggio di ritorno. Quando rientra a Kabul? Tra pochissimi giorni. Volevo solo salutare la mia beneamata Italia e la mia famiglia e poi tornare. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive sì tempi difficili, ma resta pur sempre la nuova frontiera. Continuerete a trovarli su america24.com, il sito che vi porta sulla sponda americana. Seguiteci su Twitter 24 America, scriveteci su Facebook ed eccoci alla canzone del giorno. Gli Orchestral Maneuvers in the Dark tornano dopo 14 anni con un nuovo long play intitolato History of Modern. Fra le canzoni vi propongo VCR. Da Lisbona è tutto, Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going! America 24.